Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il sito di Radio 24, dove potrete scaricare via podcast le puntate, dove troverete anche i contenuti delle nostre trasmissioni e i profili dei conduttori. Nel mio troverete un blog, Guardie o Ladri. Lo conoscete, lo consultate in maniera proficua. Devo dire che ormai i contatti sono decine di migliaia al mese, quindi sono strafelice di questo. Oggi trovate un servizio che ho scritto su Reggio Calabria, sulla provincia di Reggio Calabria, avendo anticipato i contenuti principali di quella che sarà la relazione, che è la relazione 2009 della Direzione Nazionale Antimafia. È un quadro che oserei dire fosco, del resto già conosciuto, una città piegata dalla criminalità organizzata, ma il fatto che questa città sia piegata si vede sì dalle minacce e le intimidazioni alla Procura della Repubblica, si vede sì dalle minacce e le intimidazioni agli imprenditori, ma insisto sul punto, si vede soprattutto dalle minacce e le intimidazioni alla libertà di stampa, alla stampa, ai media. Con una premessa, e chi frequenta il mio blog lo sa, io ho un giudizio molto negativo in generale sulla stampa calabrese, lo dico a chiare lettere, ma ci sono le eccezioni, quale quella di Antonino Monteleone, un giornalista freelance giovane, giovanissimo, 25 anni, già da tempo collabora con testate importanti, ha una sua forza e una sua autonomia di pensiero, merce rara tra i giornalisti, non soltanto calabresi. Ebbene, questo giovane collega si è visto, dopo diverse minacce, una bellissima sorpresa. Nel giorno del suo compleanno, i quaquaraquà delle cosche che dominano la città hanno pensato bene di incendiargli l'auto. Qualche figlio di Lurida Cagna, come l'ho chiamato nel mio blog, ha pensato bene di intimidirlo in questo modo. Buongiorno Antonino Monteleone. Buongiorno a voi, buongiorno Roberto. Allora, intanto vi invito a seguire il suo blog, è semplicissimo, antoninomonteleone.it. Detto questo, caro Antonino, ti sei fatto intimidire da questa minaccia? Assolutamente no, anzi ti posso dire che sto usando quella che mi criticano spesso, che è una forte autoironia. Tu hai detto gli hanno fatto questo regalo per il compleanno, io sono andato oltre, io ho immaginato che fosse stata la difficoltà a inviarmi un sms, perché tra fine gennaio e inizio febbraio scadono tutte queste carte auguri, le Christmas card, quindi certo volevano farmi sapere che c'era qualcosa che non andava e hanno usato la cosa più economica, diciamo. Assolutamente, noi parliamo con Antonino Monteleone perché ovviamente è compito nostro doveroso creare una rete di protezione intorno a coloro i quali sono minacciati. Come sapete lo faccio sempre con tutti i giornalisti che si trovano in questa posizione, non solo i giornalisti. Andiamo nel concreto, Monteleone. A suo giudizio, anche se probabilmente sarà difficile individuarlo, perché quando uno continua in una catena di legalità è difficile indicare l'anello che ha dato fastidio più degli altri, ma a suo giudizio, a tuo giudizio, siamo colleghi, ci diamo del tu, a tuo giudizio, che cosa sta dando fastidio della tua attività? Ma io credo che in 4 anni e mezzo di blog ho scritto più o meno 500 articoli, quindi immagino di aver aperto altrettanti fronti. Però so che chiaramente quando racconti di alcuni meccanismi di connivenza, io mi sono occupato e mi sono appassionato alle reti di sostegno di alcuni grossi latitanti che sono stati meritoriamente di recente catturati negli ultimi 3 anni. In Calabria, in particolare nella provincia di Reggio Calabria. Certo, quindi magari è proprio questa tua attività che ultimamente ha dato più fastidio di altre. Allora, una domanda a cui tengo moltissimo. Come reagisce la città di Reggio Calabria a questo stillicidio di intimidazioni, alcune vere, altre presunte? E se andate a leggere ciò che ho scritto da settimane, per primo in Italia, capirete che cosa intendo dire con minacce presunte. Ecco, come reagisce, Antonino, la tua città? La mia città oggi reagisce in maniera certamente diversa rispetto a 10 anni fa. C'è sicuramente una presenza maggiore delle istituzioni che hanno lasciato abbandonato quel territorio per molti, molti anni. Lo Stato ha sicuramente abdicato in intere zone della Calabria, e la testimonianza più ingenua, più semplice magari, ma la più evocativa, sono i famosi cartelli di benvenuto nelle città presi a colpi di fucile. Cioè, certo. Per me è sempre stato fin da bambino il simbolo che era un confine, quel cartello preso a fucilate quando entravi nei paesi della periferia dello Ionio Reggino o del Tirreno, dice, dello Ionio Cosentino. Insomma, quello è il messaggio che lì finisce la sovranità dello Stato, si sospende insomma quello che è l'ordinamento della Repubblica Italiana e si passa ad un altro regime. Ecco. La città oggi reagisce in maniera diversa, ma soprattutto reagisce in maniera diversa perché ha uno strumento in più, che è la rete. Magari anche chi non ha il coraggio di scendere per strada, e non posso biasimarlo perché certo. L'aria che si respira è comunque pesante. Certo, ecco, io vorrei farti una domanda, Antonino. La parte della relazione della DNA firmata e scritta dal sostituto procuratore nazionale antimafia Roberto Pennisi dice una cosa chiarissima: in provincia di Reggio Calabria, tanto nella fascia ionica quanto nella fascia tirrenica, chi più chi meno, la vicinanza, il contatto, la pervasività, la penetrazione, il matrimonio, chiamiamolo come vogliamo, con la politica è a livelli sempre più elevati. Allora, senza entrare nel merito dei partiti, di cui non me ne frega assolutamente nulla. Nulla, non è una questione di partito. Pennisi, ecco, dice una grande verità, soprattutto perché, ecco, Pennisi è uno dei protagonisti forse della migliore stagione della magistratura reggina, quando fronteggiò le cosche tra nei primi anni 90. Pennisi è uno degli autori di quel grande processo di cui nessuno mai si occupò sulla stampa nazionale come avrebbe dovuto, che si chiamava Olimpia. Certo. In Olimpia venne dimostrato, intanto si capirono qual era effettivamente la spartizione dei territori, fu come il maxi processo di Palermo, c'erano 285 imputati, oltre 80 ergastoli alla fine di quel processo, ma soprattutto si capirono quali erano i canali di connivenza. C'è un'altra verità nella relazione che tu hai anticipato, di cui parla Pennisi. Oggi ci sono nelle realtà piccole, non solo in Calabria, immagino anche piccoli comuni della Lombardia, in cui piccoli distretti giudiziari, in cui gli avvocati al mattino fronteggiano con la più brillante delle loro oratorie degli avvocati che poi ritrovano la sera, non lo so, al Lions Club piuttosto che al Rotary. Ma diciamo questo, che è una cosa che abbiamo scritto entrambi, io negli anni e anche tu negli anni. Diciamo così che c'è una straordinaria occasione in Calabria, più generalmente, di incrocio fra mala politica, cattiva amministrazione giudiziaria, vale a dire giudici corrotti, e cattiva imprenditoria, vale a dire imprenditoria corrotta, che è la massoneria deviata, le logge deviate. Me lo confermi o me lo smentisci questo? Te lo confermo con dati certi, peraltro. Cioè, è noto come ci siano, d'altronde, avvocati e magistrati che vanno a cena insieme quando non sono addirittura marito e moglie, che poi trattano assieme delle cause. Cioè, uno dei famosi articoli dell'ordinamento giudiziario, che è l'articolo 18, di cui ci si occupa molto di rado solo quando si deve, non lo so, disturbare un magistrato che sta lavorando bene, il magistrato è l'articolo che prevede che o se tu hai una moglie magistrato o se tu magistrato hai un marito, insomma una compagna avvocato, non potete operare nello stesso distretto, quantomeno non trattare le stesse cause, perché diventa un po'. Ecco, basta leggersi l'ordinanza Why Not, disponibile anche in rete, di ormai circa 3 anni fa, del ex PM Luigi De Magistris, che poi ha avuto la sciagurata idea di scendere in politica. Lo dico sempre, un magistrato come un giornalista dovrebbe essere un monaco per definizione, quindi mai scendere dal quello che è un vestito ed una tonaca super partes. Ecco, basta leggere quell'ordinanza per capire gli intrecci che da sempre ci sono in Calabria, soprattutto tra professionisti e magistratura. Allora, Antonino, io direi, do appuntamento ai nostri radioascoltatori al tuo sito antonino.monteleone.it, antonino.monteleone.it, al mio blog, dove oggi è ancora in bella vista l'articolo sulla relazione della Direzione Nazionale Antimafia su Reggio Calabria. Ma da domani, cari radioascoltatori, ci sarà un'altra esclusiva, vale a dire la relazione secretata del prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi sulla penetrazione della mafia a Milano, e anche lì ne leggerete delle belle. Grazie ad Antonino Monteleone, grazie in regia a Filippo Oreggi, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.